Data astrale 30 gennaio 2008, l'anno della svolta, da una Milano ancora rinchiusa nelle tenebre dell'oscurità, un manipolo di eroi si rinchiude negli stanzini di Rock FM, City in Via Locatelli 1, 20-124, Milano. L'Ariele e Spadino sono gioiosi, euforici nel potervi invitare anche stamane all'appuntamento in diretta più atteso dell'etere, più o meno. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll e quest'oggi segna la sua 172esima tacchetta. Sì, perché facciamo le tacchette sul mixer noi ogni giorno. Una bella sfilza, Spadino, eh? Per la puntata 200 ci inventeremo qualcosa? Pane, burro e rock and roll. Così, d'amblè, c'ho voglia di festeggiare io. La tua colazione rock. Qui ogni scusa è buona, eh? Pane, burro e rock and roll. La meglio colazione in circolazione. Eccoci qua. Sta trombetta dov'è? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Le parole le ho composte io, almeno per la sigla di Pane, Burro e Rock and Roll, su aria di Sex, Drugs and Rock and Roll del mitico Ian Dury. Il primo saluto lo devo fare, Spadino, se no mi dimentico, è 4 giorni che volevo farlo, è a Jacqueline, che è una, nemmeno una mezz'orista, è una 20-minutista, perché ci ascolta dalle 7 alle 7:20, ci riempie sempre di un sacco di complimenti, quindi quest'oggi il saluto va decisamente a lei. Saluto che mi arrivava via SMS, tra poco vi ricorderò anche le coordinate. Come al solito non c'è mai un granché di bisogno di ricordarvi le coordinate, perché le sapete meglio del numero della vostra morosa / vostro moroso. Vi segnalo invece il nostro spazio su internet, come fanno i giovani del 2008, essendo anche noi un manipolo di giovani moderni ragazzotti del 2008, www.myspace.com/paneburrofm. È lì che trovate gli interventi quotidiani della nostra trasmissione, ma soprattutto da qualche giorno trovate anche, beh, innanzitutto c'è una striscia fumettata di striscia fumetti, intendevo, maliziosetti maledetti, una striscia di Frigo e Rogna molto divertente fatta da un nostro amico romagnolo. Ci trovate qualche video e soprattutto le fotografie in anteprima del nostro carro di carnevale di Celle Ligure con il buon Mario che ci scrive sopra Rock FM, un po' da panca bestia devo confessare, ma è già qualcosa. Diamo un inizio serio a questa trasmissione con del buon rock and roll. Benvenuti, buona giornata. Vi accompagniamo fino alle 9, se vi va. E noi siamo liberi. I'm free. Ah-hoo! Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. col giro però con la pennata alla Tausch, no? Col giro intero del braccio, sì. Che inizione, yahoo, di I'm Free. Beh, certo, marchio di garanzia di questa trasmissione è la buona musica di Rock FM, che ovviamente ci accompagniamo, che ci accompagna nel corso di queste due ore. Allora, nello specifico, scusate, sono un piscuano perché guardo gli sms e non dovrei, peggio di Mox Cristadoro. Allora, vi do le coordinate, il numero di sms 335 100 77 77, e ariel@radiorockfm.com. sono sempre importanti perché diciamolo, l'80% di questa trasmissione la fate voi, anche perché dovessimo farla io e Frick, sareste messi molto male. E ogni giorno ne scopriamo di più, è sempre un piacere invitare nuovi amici, ci piace interagire con voi, ci piace sentire la vostra voce, poi siamo consci di avere all'ascolto, insomma, gente avanti, quindi è un piacere condividere la mattinata con voi. Abbiamo parecchie storiacce che dovremmo riprendere, parecchie storie che avevamo iniziato con il radioascoltatore e poi le abbiamo gettate lì, anche perché sta settimana, avendo poi il raduno surrealista, non abbiamo capito più nulla. C'è un amico che sicuramente devo ricontattare quest'oggi, ve lo spiego con calma più tardi. Risottolineo la casella di posta elettronica, che è molto semplice, ariel@radiorockfm.com, perché ieri ho ufficialmente dichiarato pubblicamente e abbiamo trovato il modo, seppure architettoso si può dire, ardimentoso è meglio, seppur ardimentoso, di spedirvi il calendario 2008, l'anno della svolta. Chi fosse interessato, chi lo volesse, ci sarebbero da pagare le spese di spedizione, tra l'altro, perché né io né Frick siamo messi molto bene ultimamente, e Spadino non ne parliamo. Quindi se mi contattate via mail o se lo richiedete via mail, noi vi spieghiamo cosa ci siamo inventati. Molto semplice, nulla di che, però vabbè. ariel@radiorockfm.com. 1-2-3-14, manco fosse Frick sto qua, hai capito? 1-2-6-9 l'aveva inventato lui, e Bono subito a copiazzarlo. Bravo Bono, complimenti. Tra l'altro siete alti uguali. Non si contano le cose che si possono imparare ascoltando pane, burro e rock and roll. Buongiorno maestro Antonio. Buongiorno a lei DJ Ariele, e soprattutto all'interno di pane, burro e rock and roll la rubrica del mattino, la rubrica benaugurante, certo. L'almanacco del giorno che fu. Oggi è il 30 di gennaio, se il calendario non mi inganna, giustamente, e siamo al penultimo giorno del mese di gennaio, sì. Stiamo quasi per farcela, per chiudere gennaio. Dovremmo girare la pagina dei Ramones per passare a un'altra del calendario, esatto, 2008, del calendario, l'anno della svolta, del famoso calendario di pane, burro e rock and roll. Mi tufferei nell'almanacco del giorno che fu, perché partiamo con una notizia bomba. Era il lontano 1847 quando Yerba Buena, ovvero l'erba buona, in California, una cittadina in California, viene ribattezzata in San Francisco. Ah, la celeberrima San Francisco. Sì, esatto. Era in realtà in origine Erba Buona. Non male come nome, potevano male tenerlo, perché l'hanno cambiata. Infatti, era sconveniente. No. Sì, però non mi dispiace. Proseguiamo con una brutta tripletta che segna questo 30 di gennaio, perché nel 1948 viene ucciso da un estremista indù il povero Mahatma Gandhi. Della serie un cretino omicida si trova sempre a qualsiasi latitudine. Nel 1969 a Londra ricordiamo l'ultima esibizione pubblica dei Beatles sul tetto della Apple Records. Il concerto improvvisato venne interrotto dalla polizia, dagli ufficiali di polizia che chiesero gli autografi agli stessi Beatles. E per proseguire nelle disgrazie, nel 72 a Derry ricordiamo il Bloody Sunday, celebrato anche da una canzone degli U2. Le forze del Regno Unito uccidono 13 dimostranti cattolici nordirlandesi. Tanto per rimanere così sempre in attività, in esercizio. Cerchiamo di chiuderlo un po' meglio questo almanacco iniziato col piede sbagliato. 2003, 30 di gennaio, il Belgio dà validità legale al matrimonio omosessuale. Oh, bene. Colpo di scena. Finalmente. Era tempo che anche i culattoni, eccolo, avessero i loro privilegi. Molto bene. Viva il matrimonio omosessuale. Non la facevo così aperto. Ero molto ironico. Io detesto tutti i diversi. Mannaggia me che l'ho detto. Love Bites e i suoi chili di reverbero, The Flappard. Oh, andava così, no? Tra l'altro immaginavamo qui in redazione che il batterista dei The Flappard è uno che potrebbe tra sé e sé dire medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Avendo un braccio solo, potrebbe essere un filo geloso degli altri batteristi con due braccia, ma anche no, potrebbe anche non essere. Il tutto era per legarmi alla nuova grande iniziativa di Pane, Burro e Rock and Roll. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Dedicata all'invidia. Il vizio capitale forse più rock di tutti. Questa è la decisione che abbiamo preso su due piedi, tra un chinotto e l'altro. Io Freak e il nostro redazionista Isaac Rizzi. Probabilmente medaglia, medaglia, medaglia potrebbe dirla anche questa radioascoltatrice, che è una 10 minutina più IVA. Quindi ascolta sui 12 minuti di Pane, Burro e Rock and Roll. No, meriti di più, cara bugina. E quindi ti ricordo, su RadioRockFM.com, l'archivio di tutte le puntate della nostra trasmissione, che ti puoi ascoltare con calma e serenità nel corso del pomeriggio, del tardo pomeriggio, della sera o della notte, ma anche della mattina tarda, insomma, un po' quando più ti pare e piace. Ma tornando a bomba su medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. La sfida che lanciamo ai radioascoltatori, e miriamo alto questa volta, è di vedere se avrete voglia di confessare la vostra invidia. Le coordinate sono sempre le stesse e garantiamo l'anonimato, nel senso che, come si fa nelle migliori trasmissioni, spicceremo la vostra voce, così si dice in termine tecnico, quindi vi manderemo bassi così, in modo tale che nessuno potrà mai riconoscervi. Iniziativa che abbiamo lanciato nella puntata di ieri e che anche quest'oggi l'MLM vi ricorderemo. Saluto un amico che notava quanto io stamane sia particolarmente più dislessico del solito. Mi spiace, ragazzi, io ce la metto veramente tutta, ma sta sveglia alle 5:30 del mattino gnafo, capito? Gnafo. Per voi amici della prima ora, ricordo, rammento che poco prima del weekend scorso, nella puntata di venerdì, gli amici della seconda ora si erano ciucciati una classica rubrica che si chiama Le Zeppelin col Kazoo. Mai sentito? Questo giro avevamo una Kashmir, che bella Kashmir, uno dei brani più belli dei Le Zeppelin, risuonati con il Kazoo. Speravate di esservela persa, invece no, ve la programmeremo quest'oggi nella seconda mezz'ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Imperdibile. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, Burro e Rock and Roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Ciao. Lavoro nella redazione di un programma radiofonico di successo. Mi avevano promesso un sacco di soldi. In realtà non ho visto niente. Probabilmente meritavo di più. Anch'io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo L'invidia è rock. Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Oh ragazzi, ma è sicuro l'anonimato qua, vero? Isacco, stai in una botte di ferro. Arizzi, non ti fidi di noi? Tranquillo. Through